giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona giornata da Maria Spezia e da Elisabetta Zaccone in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio GR, in cui ci occuperemo dei riflessi dell'attacco a Israele dall'Iran, lanciati missili e droni nella notte, l'apprensione della comunità ebraica. Domenica di sole e di caldo, litorali presi d'assalto, raccordo autostradale chiuso fino a domani da Prosecco a Duino per consentire i lavori di demolizione del sovrappasso di Duino, code e disagi in tilt la viabilità sul Carso Triestino. Ricca la pagina dello sport, dal calcio al basket, con la finale di Eurocup di pallanuoto femminile che nel pomeriggio alla Bianchi vedrà le orchette impegnate contro il plebiscito Padova. Spazio anche al torneo internazionale di scacchi al Via tra poco a Lignano. Dunque, primo attacco diretto dell'Iran a Israele, neutralizzato dal sistema di difesa di caccia e batterie antiaeree Iron Dome, lo scudo che protegge lo Stato ebraico. Attacco vissuto con apprensione dalla comunità ebraica di Trieste, in una regione dove non mancano gli obiettivi considerati sensibili. Domani il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza farà il punto della situazione. È stata una notte di grande apprensione per la comunità ebraica di Trieste, una notte insonne, ha spiegato il presidente della comunità Alessandro Salonicchio, con il pensiero a parenti e amici che vivono in Israele. Alla fine ha prevalso la difesa messa in campo da Israele stessa e dai suoi alleati, intercettata la quasi totalità dei droni e dei missili lanciati dall'Iran, il primo attacco diretto del regime degli Ayatollah sullo Stato ebraico. Sul fronte locale rimane alta l'attenzione delle forze di polizia a controllo degli obiettivi considerati sensibili, che in Friuli Venezia Giulia non mancano, in primis i siti ebraici appunto e la base USAF di Aviano, ma non solo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è in contatto con i prefetti e domani presiederà il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza al Viminale, la presenza anche dei servizi segreti per fare il punto sulla situazione. In settimana i comitati provinciali per l'Ordine e la Sicurezza, che sono già dell'attacco di Hamas del 7 ottobre sensibilizzati sul rischio terroristico, tant'è che a seguito di quei fatti si decise di sospendere Schengen in ingresso dalla Slovenia, sospensione tuttora in vigore. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Domenica caratterizzata dalle alte temperature al di sopra della media stagionale, che stanno attirando molti, in particolare verso Grado e Lignano e il lungomare di Barcola. Lunghe code e disagi per la chiusura del raccordo autostradale di Trieste, con uscita obbligatoria a Sistiana in direzione Trieste, e allo svincolo di Prosecco in direzione Venezia per consentire la demolizione del sovrappasso autostradale di Duino. La chiusura del tratto del raccordo autostradale da Prosecco a Duino in entrambi i sensi di marcia, programmato fino a lunedì per avviare i lavori di rifacimento dello svincolo di Sistiana, ha fatto collassare la viabilità sul Carso Triestino. Dalle 10 la ex provinciale da Prosecco in direzione di Sistiana è diventata un serpentone di automobili, con anche qualche camion, fino alla rotonda di Sistiana, dove confluisce anche il traffico di quanti escono dalla città lungo la costiera, dove c'è una coda di circa 2 chilometri. Inevitabile il malumore degli abitanti delle frazioni da Prosecco a Sistiana, ma anche dei gestori dei locali. Un ristoratore ci ha detto che i dipendenti sono in ritardo di un'ora abbondante, ma lo consola il fatto che anche i clienti viaggiano con ritardi importanti. Il vice sindaco di Duino Aurisina, Michia Petelin, ci ha spiegato che l'intervento di rifacimento dello svincolo era improcrastinabile, in quanto la perizia statica ha segnalato la sua pericolosità e dal crollo del ponte Morandi, in caso di una perizia così chiara, bisogna intervenire immediatamente a prescindere dalla stagione. Sistiana, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su quasi tutta la regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste 19,5 gradi, a Gorizia 25, a Pordenone 23, a Udine 22,5, a Tolmezzo e a Tarvisio 21,5 gradi, a Forni di Sopra 20,5 gradi, a Piancavallo 18, a Sappada 11,5, sul Monte Zoncolan 16 gradi, sul Monte Lussari 12,5, a Lignano 22 gradi, a Grado 19,5. Le previsioni previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per il pomeriggio. Cielo sereno, poco nuvoloso su pianure e costa, mentre sui monti l'aria si farà più umida e ci potrà essere qualche annuvolamento tra le Prealpi e la Carnia. Nel Trevisiano l'aria sarà invece più secca, zero termico a quasi 4.000 metri, venti di brezza nel pomeriggio. Lo sport, iniziamo dal calcio. Oggi alle 18 l'Udinese scende in campo al Friuli contro la Roma. Dobbiamo ripartire con consapevolezza, ha detto mister Cioffi nella conferenza stampa prepartita. Serie C, la Triestina giocherà in trasferta a Gorgonzola contro la Gian Erminio con fischio d'inizio alle 14. Grande la voglia di riscatto, sono le parole di mister Bordin. Partita impegnativa, gli avversari sono imbattuti da 9 turni e non prendono gol da 7 partite. Grande impresa della pallanuoto Trieste femminile ieri, che nella Final Four di Eurocup ha battuto 10-8 le olandesi del De Zaan e oggi si gioca la finale. Le orchette scendono in piscina alle 17.30 contro il plebiscito Padova. Basket Serie A2 alle 18 a Valmaura, arriverà un avversario temibile per la pallacanestro Trieste, cioè l'Urania Milano. Per la squadra di Cristian imperativo vincere, altrimenti il quinto posto sarà a rischio. Ieri intanto la Pudine è stata sconfitta in casa darà la Real Sebastian Rieti per 66-89, rimanendo così in terza posizione. Giocatori da tutto il mondo e grandi presenze con numerosi gran maestri e maestri internazionali al torneo internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro, in programma da oggi fino al 20 aprile all'Hotel Columbus. Torneo sportivo aperto a tutti, categoria A, B, Master, Challenge, italiani e stranieri. Prima mossa oggi alle 15.30. Ci ha parlato del torneo il presidente dell'Accademia di Scacchi AS di Trieste, Massimo Varini. Siamo alla nona edizione del Festival Internazionale di Scacchi di Lignano Sabbiadoro. Abbiamo una pletora di giocatori provenienti da tutta Europa e c'è una novità degli ultimi anni, confermata anche questo, dei giocatori provenienti dall'India, che è un paese emergente dal punto di vista di scacchi, e questi giocatori vengono tantissimo in Europa per perfezionarsi. Abbiamo naturalmente i gran maestri anche dei Balcani, purtroppo non russi e ucraini come negli altri anni per gli ovvi motivi, ma abbiamo sicuramente i gran maestri della Serbia, Ungheria, poi Croazia e Slovenia, vabbè, per noi sono vicini ma comunque portano bandiere straniere. E anche una novità quest'anno dei giocatori svizzeri. Quanti saranno i partecipanti? Una trentina nel torneo magistrale e invece nel torneo amatoriale altrettanti, ma non sono chiuse ancora le iscrizioni, quindi le previsioni sono su una cinquantina, sessantina di giocatori. Il torneo ha anche un'innovazione tecnologica, presenta le scacchiere elettroniche che spediscono le mosse in internet in tempo reale. Un altro aspetto molto importante è la sicurezza. Abbiamo uno staff di steward e hostess che controllano che i giocatori non cadano nella tentazione di utilizzare strumenti elettronici. Come è già successo in altri tornei in giro per il mondo, qualcuno va in bagno, utilizza questa app, mette le mosse della sua partita e riceve tutte le soluzioni in tempo reale. Noi facciamo il servizio come guardaroba dei teatri, le hostess gentilissime ricordano di non portare in sala gli strumenti e chi li ha vengono custoditi in un ambiente sicuro e restituiti al termine della partita. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È stata inaugurata al Museo di Santa Chiara di Gorizia la mostra Tullio Crali, una vita per il futurismo. In esposizione, con ingresso gratuito fino al 29 settembre, ci sono oltre 200 opere tra dipinti, sculture, disegni, progetti di architettura, scenografie, cartelloni pubblicitari, sassintesi e altre creazioni sperimentali innovative. La rassegna è stata organizzata dal Comune di Gorizia nel percorso di avvicinamento a Go 2025, capitale europea della cultura, con Nova Gorizia. Lo Stabat Mater di Pergolesi nell'esecuzione del coro femminile Igo Gruden dell'Orchestra Barocca Triestina chiude la rassegna Pascalia organizzata dall'USCI alle 19.30 nella chiesa di San Giovanni de Collato in piazzale Gioberti a Trieste. Il Castello delle Rose di Cordovado organizza oggi la caccia al tesoro botanico Grandi Giardini Italiani, evento dedicato ai bambini in età scolare per avvicinarli in maniera ludica al patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. gratuito, appuntamento dalle 14 alle 18. A Trieste è in corso il primo appuntamento con Barbacan Produce 2024, mercatino dedicato a designer, creativi, artigiani, artisti affermati ed emergenti, con il quale il Comune si prefigge di promuovere attività nella zona di Civitavecchia. Previste proposte di ogni genere, dall'abbigliamento alla cosmesi, dalle grafiche d'artista alla decorazione della casa, per un totale di 85 banchi che chiuderanno intorno alle 18:30. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano ed Eugenio Giuffrida. Da parte di Maria Spezia e da Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.